Quali sono state le tue impressioni? Il quartiere che abbiamo fatto. Siamo a San Michele. Sì. Poi l'altro ieri sera sentivo per CB che ti mandavano tutte le cose che hanno bisogno per che gli servivano per la notte, la gente. Quali sono state le tue impressioni? Com'è la gente, in che stato è e secondo te? Lo stato è un disastro, è uno stato molto disagevole, cioè quello mi sembra evidente. Lo stato è inesistente innanzitutto, la prima cosa. Se non fosse stato per la gente che si è presentata spontaneamente, se sarebbero lì veramente in condizioni molto peggiori di quello che si possono trovare in questo momento. Quello che hai visto? Peggio di quello che mi aspettate, perché un conto è vedere in televisione, un conto è essere presente in prima persona. Cioè, vedi la storia, così cioè, non ti rendi conto della portata dell'evento, non ti rendi conto. Lo stesso. E cos'è che ha bisogno la gente di del posto? Soldi. Con quelli fai tutto, sai. Sembra una cosa evidente. Averci soldi vuol dire che tutta la gente li deve partire dalla singola persona, come abbiamo fatto noi che siamo presenti, arrivare fino allo Stato, vuol dire che la gente e lo Stato e tutti gli stiano vicini. Bisogno di senso comune di fratellanza, no? Come erano i tempi, io ti do, hai bisogno questo, ti do questo, eccetera, eccetera. Cosa una società di questo tipo è dura. Però si spera sempre che sia, non succeda come le altre volte, perlomeno, che non succeda, così. Tu saresti venuto giù comunque anche se non ci fosse stato il nostro gruppo? Sì, io ho fatto il Friuli, nel 76 ho fatto la Valtellina, adesso per l'ora di lavoro sono qui 2 giorni, là c'è posto, mi sono fermato di più. Sembra una roba giusta, come senso civico, aiutare. Infatti lavori anche in Croce Rossa, cioè. No, io lavoro, no. Ah, non sei servizio volontari? No. Ah, così proprio spontaneo. Sì, non posso, perché c'ho la ragazza che è volontaria al SOS. Poi io per ragioni di lavoro non sono sempre via, una storia l'altra, non posso sul nulla. Già che lei è appena arrivata dal lavoro e. E allora come faccio? Sei via 15-20 giorni, quello che è, vieni in casa magari solo sabato, domenica, sabato domenica. Cioè, anche psicologicamente non ti va neanche di andare, ti vuoi riposare e basta, in sostanza. Comunque niente, la situazione, ti ho detto. Cioè, pensi che ci servano altre braccia? Ma vedi, il problema è che adesso, nel giro di qualche giorno, poi evolve la cosa. Dopo c'è bisogno di altre cose, adesso sono i soccorsi immediati, c'è cioè la pulizia in sostanza. E quello lì non c'è nessuna ditta che te lo fa, in sostanza. Poi dopo c'è bisogno di altri interventi, c'è bisogno. Una serie di servizi da ripristinare. È quello, che poi anche quelli lì, servizi da ripristinare, soprattutto muratori, cioè imbianchini, cioè lì c'è da imbiancare tutto. Poi sono tutte cose che nell'immediato non puoi neanche farlo. Poi in questa stagione qui va contro l'inverno, cavolo. Uno che c'è la casa che deve dipingere, si devono asciugare i muri. Cioè, ci passeranno mesi prima che poi non c'è più il mobilio che ritorna alla situazione attuale e poi appunto poi tutti i vari accessori che c'è in una casa, i vari accessori, cavolo, lì cioè abbiamo bisogno le pigne di roba, mobili, poltrone, cioè lì c'è da rifare tutto e quello che ci vuole essere, non so, mi auguro che ci siano delle convenzioni. Cioè io appena andavo via ho parlato con un amico che è un garage della FIA, ha detto che molto probabilmente la FIA fornirà dei privilegi, cioè nel senso ne vuoi una macchina, la ritiri a prezzo di costo. Che prezzo di costo uno che ha fatto fatica e c'ha di pochi soldi, cioè se piuttosto di 10 milioni, di 20 milioni, ne avrai anche a 15, cioè è sempre una botta, capisci? Cazzo, uno che non ce n'ha. Dai, di anche tu due impressioni su come abbiamo trovato la zona quando siamo arrivati ieri. Ma io, insomma, la zona è abbastanza disastrata, che cioè, sono rimasto un po' meravigliato perché noi per esempio da Como siamo corsi, mentre la gente del posto, sì, del posto nel senso non quelli che sono stati colpiti dall'alluvione, ma quelli vicino a quelli che sono stati colpiti dall'alluvione, sembrano un po' indifferenti, un po'. Più o meno insomma, sì, c'è chi aiuta, chi è, chi... però noi siamo venuti per esempio da Como, e come noi tanti altri, sono un'altra città, ci diamo da fare per vedere di aiutare questo, vabbè che di gente ce n'era parecchio, non so dire niente. Poi secondo me che non ho visto per esempio i mezzi che ha a disposizione l'esercito, per esempio ruspe, camion, autobotti, cioè niente. Tutta roba, gente privata. Sì, sì, infatti. Mi hanno dato quell'impressione lì, Volontariato e basta. Cioè non ho visto per esempio ieri hanno scaricato quel container della Zanussi, c'era un autobus privato, non c'era pompieri, ce li hanno quei mezzi lì, no? Però non sono intervenuti. No? Situazioni che hai visto che ti hanno lasciato? Situazione nel senso che cioè, è un bel disastro, voglio dire, colpito la gente, sai, c'era da fare, però come sono rimasto lì, per esempio in chiesa, che praticamente in chiesa non c'era più niente, era si poteva un magazzino dove distribuivano tutti i generi di varie necessità. Cioè, mi fanno impressione qua perché sai, sei abituato a vedere la chiesa con l'altare, i banchi, tutto bello in ordine e pulito. Sì, però anche a me lasciato. Sembrava proprio. Poi tutto il resto, beh, insomma, lasciano cose anche che a parlarne non si può descrivere tutto quello che c'è. Bisogna vedere questo per capire. Cioè anche a parlarne, a raccontare, no, la gente sopra. Ti dice sì, poi... Sopra. Capisci? Se tu vai a casa a raccontare quello che hai visto, osti, sì, è vero, poverina. Però in realtà uno non riesce a immaginarsi, cioè anche, non so, guardando la televisione, vari telegiornali che si fanno vedere così qualche cosa, tanto per dire, mentre in realtà ben diverso. Essersi dentro veramente una cosa, o no? Mi tiene le tue impressioni? Beh, allora, abbiamo visto quello che è successo ad Alessandria, siamo venuti qua a dare una mano perché abbiamo sentito bisogno di aiutare delle persone che hanno un reale bisogno. Hanno bisogno d'aiuto. Questi due giorni noi facciamo quello che possiamo, però speriamo che arrivino altri volontari perché è il caos. Quello che hai visto è tornato via. Dai! È nuova popolazione! Quello che hai visto qua? Cosa ne pensi? Ah, ieri quando siamo arrivati era un macello. Non sembrava neanche un'alluvione, sembrava un... il giorno dopo una battaglia, seconda guerra mondiale, e quei film che fanno vedere di solito. Sì. Basi, devo dire. Devo dire che ieri non c'era pochissima gente, mentre oggi ce n'è quasi troppa. Anche se il lavoro è tanto, però. Quali sono gli aiuti che vanno portati secondo te? Gli aiuti che vanno portati sono le cose, gli abiti da lavoro, perché qua c'è da lavorare, come ha detto, questi cazzettoni, guanti da lavoro, queste cose qua, e poi vabbè, i vestiti in genere, niente. Poi secondo me bisognerebbe organizzarla meglio, nel senso che ci vorrebbe un gruppo ad ogni via, ad ogni zona che dirigesse perlomeno i volontari, perché altrimenti c'è una casa dove c'è tantissima gente e quell'altra dove non ce ne sono, come è successo ieri per esempio, dove... E basta. Giulia, dai, le tue impressioni di quello che hai visto oggi? Allora, non pensavo fosse una situazione così pazzesca, veramente. Poi sono molto felice di essere arrivata. Non mi piace parlare. Sono molto felice di essere venuta, benché sia arrivata con un giorno di ritardo. Dai, secondo te cosa serve qua? Cose importanti al momento che bisogna fare? Ridare una mano alla gente per cercare di rimettere in sesto, in ordine le cose in fretta, prima che soprattutto si secchi tutto e sia impossibile poi sparare il fango, la fanghina. Secondo me stai, io non so niente. Cosa che hai visto quando sei arrivato ieri? Oh, tutto polare. Praticamente sono arrivato ieri qua, ho trovato una cosa molto dura. Cosa avete portato voi? Dunque abbiamo una idropompa per l'analisi dei fanghi, per lavaggio di tutte le cose, abbiamo già pulito alcuni appartamenti. Siamo molto richiesti, ma purtroppo il tempo stringe. E la roba trovata necessaria qua adesso per lavorare? Beh, la roba necessaria, ci sono ancora molte idropulitrici per lavare fanghi, per lavare nafta, tutte quelle cose lì, almeno sulle pareti o appartamenti. Poi la ricostruzione, c'è un disastro proprio enorme. Oh Giuseppe, dimmi le tue impressioni su quello che hai visto in giro. È un casino incredibile. Penso che la gente adesso qua, penso che aspetti, cioè, vuole farlo per mettere a posto, perché si aspetta qualcun altro, può anche morire, come ha fatto penso giù in Bassa Italia. Sono le scene fortuna, più... fortuna che non pensavo che tanta gente avesse ancora volontà di aiutare gli altri, non pensavo mai più. Ho visto oggi qua alle mani anche gente che ho conosciuto un architetto, donna che ha preso la pala, prendeva le secche, quindi non pensavo mai più che specialmente in questa zona qua sono tutta gente, mi metto anch'io perché sono tutta gente che cura più che altro il suo interesse, quindi quelli degli altri cerca sempre di essere andati. Dopo tutto una volta che c'era. C'è qualche cosa che ti ha rotto le scatole, qualche scandalo, qualche scena? Ma prima di tutto mi pare impossibile, vabbè, le cose classiche che succedono in questi giorni, dei giornali, le dighe, le cose del genere. E io penso che comunque si siano sbagliati da qualche parte, perché beh, prima di tutto si... Chi è la colpa? Ma la colpa lì ormai vuole che sia la colpa, prima di tutto il loro stanziero che doveva pensarsi prima. Però più che altro dovevano avvertire, visto che a Cuneo è successo questa cosa qua, a Cuneo e a Asti è successo questa cosa qua 10-12 ore prima, avvertire almeno per salvare le vite che sono morte, i morti che... colpa, non so se... so che devono... i fax li hanno fatti, poi però bisogna vedere se li leggono, se i fax sono fatti per farli e resi. Giustamente è giusto che la magistratura adesso si mette in opera e si vede un attimo. Quindi sono le colpe. Devono scoprire almeno, non dico adesso colpevole, magari c'è, però non è che di propria volontà che ha voluto fare una cosa, spero. Però lo so. Fino a quando ti fermi tu? No, io sono di Tortona, vado a stasera, domani devo lavorare. Ho lavorato fino a ieri sera, adesso oggi sono venuto qua, non vado a lavorare. Adesso quando è che torni? Adesso è domenica. Domenica prossima. Sono ancora un altro amico, se vado a visitare un altro amico. Sono venuto qua, sono dei parenti, un po' lontani, ma sono dei parenti, una mano loro. Sono io lo stesso. Sì, infatti. Le cose secondo te più urgenti che servono a questa città? Beh, in questa città? In questo quartiere? In questo quartiere qua? Ma sicuramente lo stuolo delle fogne. Perché penso che ormai sono tutte le cantine ancora da svuotare, parecchie cantine da svuotare, tutti i tombini tappati, quindi a parte i grossi. E poi serve una mano in denaro, penso. Tante famiglie hanno perso tutto, così, hanno perso mobili, hanno perso tutto, hanno perso macchine, hanno perso... C'è solo le mura. Sono le mura, quindi è andata a rifugliare per di più. Poi magari devi mettere anche a posto le mura, non è tutto. Infatti. E poi penso che la situazione si risolva almeno fino all'estate prossima, rimangono sempre nei casini. Fin quando non viene bel tempo che asciughi un po'. Guarda qua, ieri era bel tempo, oggi già piove. Piove no, però è brutto tempo, quindi. Ci manca poco. E qua è una zona dove te sei di comodo, quindi te penso con me. Sì, nebbia. Figura. Se non piove c'è sempre umidità, quindi. Il corpo l'ho presa là, vai.